ciao Fabio Suardi. Carlo, buongiorno a tutti. Co, ci sei? Ah. Cos Dan Peterson. Eccomi qua. Buongiorno. Buongiorno amici sportivi, buongiorno a tutti. È tornato con noi Davide Pessina. Ciao Davide, grazie. Ciao a tutti, buongiorno coach. Ciao Davide. Allora consideravo, ho sbagliato tutto coach, peggio di te nei pronostici. Guarda, è la vicinanza a me è contagiosa. Mamma questa mia. Cosa. Tutto okay. L'anno che dico che Virtus Bologna e Roma sono le uniche squadre in grado di rendere minimamente interessante quantomeno una finale con una serie di finale con Siena. Yeah. Guarda un po' cosa succede, una a casa e l'altra pure. Esatto, almeno io ho pronosticato Treviso per vincere quella lì, per fattore capo, nessun altro fattore, sì, è chiaro, ma poi veramente Roma, l'uscita di Roma è una cosa che ci stiamo chiedendo tutti, ovviamente dominerà la conversazione oggi perché ho una grande società, una grande città con un grande budget, si trova fuori dai quarti finale e fuori dall'Europa, e ovviamente è una cosa inutile nasconderci dietro la diplomazia, fa rumore. E fa rumore, fallimento vero. Poi il presidente Totti così di primo impatto se l'è presa con gli arbitri. Quando perdi una serie con Biella avendo il fattore campo e andando a Biella a perdere sempre in maniera piuttosto netta, mi sembra difficile anche tirare in ballo il discorso arbitrale. Proviamo a chiedere lumi a Davide Pessina. Sì, no, beh, sicuramente è una stagione direi deludente per Roma. Uscire così ai quarti è stato brutto, una squadra comunque costruita per andare avanti, speso parecchio. La impressione mia con Roma è sempre la stessa, che non riescano mai a trovare un progetto su cui andare avanti. Ogni anno cambiano, continuano a cambiare, arrivano in finale, non basta, rivoluzionano la squadra. Poi dopo tre mesi va via Repescia, alla Re rimane, non rimane, poi va via. Non trovano mai equilibri, non mi sembra, né nella squadra né in società, e questo alla lunga la paghi. La paghi altro che. Mi è sempre sembrata Roma un bellissimo gruppo di singoli che non è mai diventato squadra. Insomma, questo è stato secondo me uno dei grossi problemi di questa squadra. Ne abbiamo parlato spesso da questi microfoni. Roma non ha mai trovato la continuità quest'anno. Sì, non ha mai trovato la continuità quest'anno, in parte nemmeno l'anno scorso, e comunque alla fine segue la strada che ha già iniziato a intraprendere la Virtus Bologna. Il giorno dopo la sconfitta con Treviso cambia allenatore, cambi general manager, Boykins va via naturalmente, va via anche Giovannoni, si ricomincia da capo. Il fatto è che ricominciando da capo Cosci non arrivi da nessuna parte. Well, innanzitutto non voglio pronunciarmi su quello che dice Sabatini, tutti dicono che lui fa sempre marcia indietro, finché non lo faccia io non voglio dire niente, ok? Però chiaro, i precedenti sono quelli, ok? Che lui dice ha venduto tutto, poi rimane e fa lui la squadra. E la mia valutazione di loro, che è chiaro che questo è veramente uno smacco, perché il fallimento di Boykins è stata veramente la cosa, perché a parte la stagione che ha fatto, a parte la gara 5 contro Treviso, la cosa che veramente è terrificante che ha fatto lui è stata l'ultima partita della stagione regolare, dove lui ha praticamente regalato a Treviso con quel fallo lì verso la fine del tempo, che Davide forse era lì a commentare, e Treviso li salta dal quinto al quarto posto, la Virtus va da quarto al quinto. Fattore capo c'era, perché solo vittoria in casa, Treviso 3-0 in casa, Bologna 2-0 in casa, quindi è stata condizionata la stagione, l'uscita dalla possibilità di andare in Eurolega, quindi sperimento Boykins, 3 milioni di dollari o anche di più, è chiaramente una cosa che non è andato, cioè era sperimentato, sembrava una buona idea, anche io ho detto sai, un piccolo non lo posso impressare, però i piccoli che vengono dall'NBA non difendono e soprattutto non difendono contro il famoso pick and roll, gioco a due, dove loro devono subire un blocco dal pivot avversario o lungo avversario. Sei d'accordo Davide? Sì, sono assolutamente d'accordo. Io credo che poi questo coach Peterson lo sa sicuramente meglio di me. Boykins ha fatto 10 anni di NBA, è vero, però credo abbia giocato forse i playoff 2-3 esatto. Volte. E questo alla fine conta, perché comunque nella stagione regolare vincere o perdere, adesso esagero, però non cambia tantissimo. Da noi è diverso. Certo. In stagione regolare, nei playoff ha maggior ragione. Insomma, giocare i playoff bisogna fare un salto di qualità mentale, bisogna fare un salto di qualità fisico. Ogni piccola cosa conta. L'impressione è che insomma 10 anni di NBA sì, ma mai... ha mai provato insomma i playoff veri, e questo secondo me l'ha pagato. Ma anche se posso interrompere un secondo, anche il fatto che come ha giocato lui in NBA, con uno stoppatore indietro, lui cercava di rubare il pallone, ma non solamente lui, TJ Ford, Iverson, nessuno di loro veramente vanno per la palla rubata. Iverson, due steal rubate e mezzo a partita. Iverson non difende, TJ Ford non difende, tutti i piccoli, l'NBA non difende, ma Chris Paul, tutti quanti, e quindi Boykins, più piccolo di tutti, non difende, punto. Quindi hai ragione Davide, ci vuole DNA da playoff, ma sì, ci vuole anche una minima disposizione a difendere. Sì, però DNA da playoff è importante, è un discorso importante questo, perché molti giocatori americani arrivano qui magari anche con un grande passato NBA, però di partite importanti, vere, in carriera ne hanno giocate pochissime all'università come nell'NBA, no coach? Esattamente, cioè io lo chiamo sempre la DNA proprio del giocatore, cioè cosa lui dice. Io quando io allenavo, io facevo mercato cercando di prendere i giocatori che sapevano che cosa era andare, come dico io, fino in fondo. Cioè, viene disponibile Bargna, Fausto Bargna, nell'85. Bargna aveva vinto due Coppe di Campione, uno scudetto e le altre cose. Prendo Bargna, Barriviera due anni prima, 83. Barriviera, ma non se ne parla neanche, vinto una manica di scudetti, tre Coppe di Campione, una cosa così. Prendo Barriviera. Cioè, voglio gente che sa cos'è giocare una partita playoff, che conta tutto, che va fino in fondo. Non se ne parla di Meneghin. Premier invece è venuto da noi senza una grande esperienza, ma l'ha acquisito qui, perché Premier alla fine era un giocatore molto da playoff. All'inizio non era neanche in quintetto base, c'era Franco Boselli in quintetto. Sì, era uno col DNA, arrivava da Gorizia, era uno che aveva la testa giusta, capito subito. Flavio. No, io vorrei proiettare la discussione già alle semifinali, così almeno cominciamo a presentarle. Comincerei da quella di Milano. Volevo chiedere al coach quali possono essere le insidie che Milano deve cercare di dribblare da Biella. Innanzitutto ha detto Buchi molto cautamente, stiamo attenti, cioè, che Biel è arrivato qua, dobbiamo trattare loro con grande rispetto, cioè grande, non solamente diplomazia da parte di Buchi, che okay, tutti gli allenatori sono diplomatici in questi casi qui, però lui dice anche una grande verità, loro devono affrontare, prendere tutto con le proverbiali pinze, perché un minimo di presunzione e loro rischiano di fare la fine di Roma, perché la cosa di Biel, e Davide sa questo benissimo, che qui in Italia gli americani che vengono dicono ok, abbiamo riempito il contratto, non siamo inadempiente se abbiamo fatto la stagione regolare, poi se andiamo ai playoff fuori allora andiamo a casa in America prima. C'è anche sempre questo pericolo con gli americani, gli europei meno problema. Invece gli americani lì hanno letteralmente sputato sangue per vincere quella serie con Roma. Quell'intercetto di Gisso sulla rimessa di Datome è stato veramente l'emblema della voglia con cui gioca Biela. Vediamo se loro riescono a ritrovare questa carica contro Milano. Certamente lo faranno, perché la distanza non è esattamente grande fra le due città, c'è una mini rivalità, però devono loro avere la grinta e Milano deve stare molto attento. Sì, io e Davide Pessina siamo d'accordo sul fatto che serie è tutt'altro che chiusa, e secondo me anche tutt'altro che corta. Sì. Davide? Sì, sono dell'idea che Milano debba fare molta attenzione. Dal punto di vista sicuramente psicologico, come diceva giustamente coach Peterson, non sottovalutare minimamente una squadra che comunque è arrivata in semifinale, e secondo me anche dal punto di vista tecnico, nel senso che comunque Milano ha perso male a fine della stagione regolare a Biella. Biella è una squadra che secondo me è in buonissime condizioni atletiche, nonostante abbiamo giocato ogni due giorni mi sono sembrati insomma più pronti di Roma dal punto di vista fisico. Sì. E rispetto a Teramo, con cui Milano ha sofferto tantissimo, tra parentesi complimenti davvero a Teramo per la stagione straordinaria, anche per i playoff, ha una panchina più lunga, perché per quanto insomma Teramo abbia avuto cose eccezionali da Piazza, Lulli, Cerella e compagnia, dalla panchina di Biella escono Spinelli, Brunner, Jurak e Aradori, che con Roma hanno cambiato la serie. Mica per male. Cui io credo che Milano debba davvero fare attenzione. È chiaro che è più lunga Milano, al vantaggio del fattore campo, per cui è leggermente favorita, però attenzione. Sì, sono d'accordo. Io rimango stupito invece, tornando al discorso di Bologna che smantella, rimango stupito del fatto che nessuno abbia ancora capito la lezione di Siena, che ha un dominio che è imbarazzante nei confronti di tutti, eppure si ricomincia da capo ogni anno. Adesso aspettiamo di capire cosa farà Roma con questa squadra, però il segnale da Bologna è preoccupante, coach. Esattamente, cioè, stiamo tornando a questo discorso qua di Sabatini, che io vi dico una cosa, io non voglio, cioè, la gente anche spesso prende per, in giro Sabatini, non voglio neanche fare questo qui, perché lui si dice solamente voglio vendere, dico ma forse è una sparata, ma quando lui dice Lucchi non c'è più come general manager, Boniciolo non c'è più come allenatore, e anche il suo staff è fuori, e anche Giovannone e tutti quanti vanno via, allora non è uno scherzo, ok? Questo vuol dire che ha interrotto diversi rapporti, chiuderà, transerà il contratto con Boykins. Questo vuol dire, e lui ha fatto una frase secondo me significante che ho letto io oggi, che dice preferisco andare con i giovani e lottare per non retrocedere che così, perché lui era molto deluso dal mancanza di pubblico, perché ha detto che siamo andati in finale della Coppa Italia, abbiamo vinto l'Euro Challenge eccetera, e invece la metà di abbonati, cioè 1500, non so neanche cosa dire quanti, quando ero lì la Virtus era 6000, fai conto, quindi in diminuzione, però è una battaglia adesso, e lui è una grande battaglia da fare, ma sembra questa volta che forse può essere vero, non lo so, perché anche io sono un po' cinico, però quando vedo lui smantellare così, questo è un segno. Sì, bisognerebbe anche interrogarsi sulle ragioni per cui c'era poco pubblico a Bologna, dove peraltro, dati alla mano, sono usciti ieri i dati di affluenza dei palazzetti, il pubblico del basket cresce e la Virtus Bologna è la società che ha più pubblico, quindi ci saranno anche delle ragioni per cui c'erano così pochi abbonati per questi playoff della Virtus. Davide, che ne pensi? Ma sì, si parlava di prezzi molto possibilmente alti. Molto alti, io francamente questo non lo so con esattezza. È chiaro che adesso è un momento delicato per una delle società più gloriose della nostra pallacanestro, bisognerà vedere cosa succederà. Lui sembra deciso a vendere, o perlomeno tutte le mosse fanno pensare questo, bisognerà vedere, però è un peccato. Io mi ricollego al tuo discorso iniziale. Siena ha insegnato a tutti che si costruisce anno per anno, però tenendo uno zoccolo duro. Siena ha trovato chiaramente dei giocatori speciali dal punto di vista anche dell'etica del lavoro, come McIntyre, come Stonrook, come Sato, come Eze, insomma andiamo anche avanti, però intorno a questi hanno aggiunto ogni volta degli altri giocatori. Le altre, come dicevamo prima, arrivano, perdono e ricominciano da capo. Alla fine fai fatica a trovare il modo poi per riuscire a competere con una società così ben organizzata come Siena. Ecco, a proposito di Siena, la serie tra Siena e Treviso invece la vedete molto più chiusa rispetto a quella tra Milano e Biella, almeno in partenza. Coach. Io prima di pronosticare contro Siena, cioè, lasciatemi nella vita una garanzia, vi prego, ok? Quindi è veramente, come diciamo, è un rullo compressore, cioè, loro non perdonano assolutamente niente, ogni peccato viene punito, cioè, loro sono a parte grande coesione, e Davide ha toccato l'argomento perfetto, che loro tre anni almeno insieme di tutti, Pianigiani terzo anno, Minucci lì una vita, ok, Banchi vice allenatore tre anni, tutti i giocatori chiavi, Caucaino, Storno, almeno tre anni, quindi la continuità paga, perché si trovano in campo, uno dice oh come gioca bene Siena, ma per forza si conoscono perfettamente, non è piacere mi chiamo Caucaino, hai capito, cioè non è quello lì, sono abituati, anche le mie squadre Milano, non per citare questo, però facevamo leva su questo quando allenavo Bologna, ero lì 5 anni, Bertolotti 5 anni, Antonelli 5 anni, Bonomico 5 però, anni. Coach, posso dirti una cosa? Però quando giocavano contro di voi, qualche volta vi battevano, insomma, mi sembra che comunque la tua squadra fosse uno squadrone. La Virtus di Ginobili e di Rigado qualche volta perdeva. Io ho l'impressione che con Siena giochino già tutti con gli occhi sul pavimento, senza guardarla in faccia. E questo non è bellissimo, eh? No, è vero che loro hanno... che le altre squadre forse hanno un po' di sudditanza psicologica nei loro confronti, su questo non ci sono dubbi, però non del tutto, cioè qualche volta Siena ha dimostrato anche di poter forse anche soffrire qualcosa, però hai ragione tu, la metà di queste cose qui è andare lì a dire io ce la posso fare, cioè bisogna essere convinto, se uno non è convinto la cosa è molto più complicata, cioè, è tutta una questione di essere convinti, lo sanno tutti gli allenatori, sa Davide, cioè, perché io mi immagino Davide, le cose che hanno vinto sono andate in campo convinte, quelle che hanno perso dico, forse oggi non la possiamo fare, mentalmente tu devi essere lì con la testa. Non trovi anche tu, Davide, che sia molta soggezione nei confronti di Siena? Sì, beh, sicuramente sì. Pensare che insomma abbia perso una partita sola in un anno credo sia sicuramente molto preoccupante per gli altri. Però Siena, da parte sua, ha grande merito di avere una forza mentale straordinaria. Nel senso che loro, se si nota, fanno la giocata migliore della partita nel momento per loro più difficile. Magari hanno sbagliato due tiri, perso un pallone, la squadra avversaria sta rimontando, la quarta te la fanno giusta e tu mentalmente crolli, perché dici ci sono lì e loro ti danno la mazzata finale. Questo è merito loro, credo sia anche del demerito degli altri, però loro sono incredibili in questo, incredibili la mentalità con cui affrontano ogni santa partita, perché per vincere 29 su 30 vuol dire che non molli mai. Certo. Anche più quando... 3-0 in Coppa Italia, più 1-0 nella Supercoppa, ragazzi. Esatto, vuol dire non mollare mai, anche quando tu sei con 16 punti di vantaggio, due giornate dalla fine, stai caricando per i playoff, dici beh magari questa posso mollarla. No, mai. E questo secondo me è una cosa che entra nella testa degli avversari. Loro sono bravissimi in questo. La serie con Treviso credo che sia oggettivamente segnata. Poi è vero che Treviso in casa ne ha perse due, vabbè, una con Siena appunto. Certo. A Treviso deve giocare la partita perfetta, Bulere deve fare la partita della vita, cioè questa Siena ti costruisce, non è impossibile, però Siena, Treviso deve essere super convinta, prima con la testa, prima di andare in campo. Sì, e poi devi vincerla tu, perché loro non la perdono. Sì. Questa secondo me è un'altra cosa importante, cioè sono a volte le squadre che magari la mollano, bravo, ne perdono, loro non la perdono mai, tu devi essere meglio di loro e questo è dimostrato che è molto difficile. Bravo Davide. Ciao coach, grazie. Ciao ragazzi, arrivederci. Ciao, alla prossima, ciao con tutti. Coach Peterson. Palla spicchi. Ecco che torniamo, adesso Flavio Suardi, caro Fabio, lei dirà il risultato e anche i migliori marcatori della partita tra Cleveland e Orlando di ieri notte. Ha vinto Cleveland, quindi LeBron James prova a rimettere in piedi la serie, poi parliamo anche di NBA naturalmente, e tra l'altro chiuderemo il programma con un'intervista ad Andrea Bargnani realizzata da Dario Ricci. Risultato? Risultato adesso non ricordo esattamente computer, il termine, computer permettendo te lo dico in questo 112 a 102 sei preparato, non hai studiato sull'NBA? No, io ammetto che di guardarla pochissimo l'NBA, no, io la guardo moltissimo e sono dei playoff pazzescamente belli. Io guardo solo i Lakers, tu lo sai, mi sono addormentato all'inizio del quarto, ma ero ormai molto tardi. Francesco, buonasera, anzi buon pomeriggio. Vivo sul fuso orario dei playoff americani, mi perdoni. Non ancora recuperato. Allora, due argomenti velocissimi. Sì. Il primo, c'è molta confusione su chi il prossimo anno andrà in Eurolega e quindi volevo sapere, perché c'è chi dice che con l'uscita di Bologna Roma ha acquisito per 3 anni la licenza e quindi è già una cosa abbastanza importante soprattutto per Roma. Progetto Roma, velocissimo. Io vi faccio velocissimi quelli che secondo me devono restare. Jaber. Sì. De La Fuente forse, punto interrogativo. Sì. Datome. Sì. Hudson. Sì. Bešírović. Gigli. E forse Giachetti. Allenatore, un'altra chance per Gentile o scelta rivoluzionaria Valli. Sono d'accordo. Se non arriva prima la Virtus Bologna a prendersela, a riprendersela. Beh, vediamo la Virtus cosa fa. È meno chiaro dei programmi del Milan, quello della Virtus Bologna. Certamente ci sono alcuni giocatori tipo Brezek, ad esempio, che sono abbastanza inspiegabili. No, ma ha ragione l'ascoltatore. Se si parte così, mi sembrerebbe la soluzione migliore, la base da cui partire, no, Davide? Beh, sicuramente sarebbe una buonissima base, non c'è dubbio. Sicuramente giocatori di qualità, comunque giocatori di buonissimo livello, con un paio di giovani, comunque come Datome che ha dimostrato di poter essere insomma in procinto di esplodere. Io credo che sì, però l'importante sia innanzitutto far chiarezza su chi rimane, su chi non rimane, parlare anche dell'aspetto tecnico, perché comunque Nando Gentile ha fatto il suo primo mezzo anno da allenatore, può essere giusto investire su di lui. Io credo che però a quel punto forse gli converrebbe essere affiancato magari da un vice di grande esperienza per tante piccole cose, e questo credo che potrebbe anche essere molto utile per la sua stessa crescita. Per quanto riguarda i giocatori, sicuramente Jaber è un giocatore secondo me di altissimo livello, Hudson è un giocatore che ha dimostrato di poter far bene, Bešírović è chiaro che è un giocatore insomma con i problemi che ha, nel senso che questo è un ragazzo che gioca, è un miracolo, nel senso che sembrava non dovesse tornare a camminare e invece fa la differenza. Per cui io credo che insomma ci sia un buon nucleo da cui partire. L'importante secondo me è appunto avere già le idee chiare, partire per avere un progetto di 2-3 anni e insomma lavorarci sopra, aggiungere pedina su pedina, però non smantellare di nuovo magari alla fine dell'anno prossimo o a metà anno, perché le cose non vanno bene subito. No, ma anche perché questa, ripeto, il discorso che facevamo prima, è una squadra da corsa, cioè sì, è sì, una squadra che poteva rendere equilibrato una serie con Siena. Una settimana fa eravamo qua con Attilio che abbiamo fatto un quintetto ipotetico ideale del campionato e Attilio ha messo Jaber come guardia e Hudson. Io sono d'accordo, due giocatori di Roma, certo, che vanno nel quintetto ideale del campionato. No, no, certo, sicuramente sono due giocatori di altissimo livello, come Roma aveva giocatori di altissimo livello, panchina lunga, rotazioni lunghe, qualcuno ha deluso. Si è creato poi sì, un meccanismo strano, a me è sembrato che in gara 5 fossero anche molto tesi, avessero sì, un po' di paura e questo sicuramente non aiuta. Per quanto riguarda l'Eurolega invece non è ancora chiarissimo il discorso, almeno io non ce l'ho chiarissimo, però credo di sì, credo che Roma praticamente abbia la licenza triennale a patto che Milano non vinca lo scudetto. A patto che Milano non vinca lo scudetto, credo, esatto. Credo. Sì, sì, sì, è così. È così, anche se manca ancora chiarezza nei rapporti soprattutto tra l'Eurolega e le autorità italiane sulla questione del ranking. Uno dice no, fallo tu che mi viene da ridere, insomma non è sì, chiaro sì, su, sì, chi sì. Debba, su chi debba compilare questo ranking che conferisce le licenze triennali. Un po' di confusione c'è, ma in linea di massima dovrebbe essere come abbiamo detto. Michele da Trieste, buongiorno. Buongiorno. Io volevo solo un'opinione degli ospiti in merito ai 3.500 spettatori per la finale playoff di Trieste. Che battendo Riva del Garda è andata, esatto, in a dilettanti. Sì. Esatto, è una piazza che ha fatto 3.500 spettatori in una partita di dilettanti fondamentalmente. Sì, sì. Beh, trovo che sia una cosa meravigliosa, trovo che sia... È Trieste che torna finalmente, si riavvicina verso la pallacanestro di alto livello. Io ho avuto la possibilità di giocare tante volte a Trieste, insomma, pubblico competente, sempre appassionato, con anche buonissime squadre negli anni. Mi viene in mente la Stefanel di Boscia Tanjevic. Per cui sicuramente credo che per tutto il movimento sia importante che Trieste torni al posto che le compete, come è stato per esempio per Caserta quest'anno. Insomma, le grandi piazze storiche che dimostrano di avere, insomma, ancora così tanti appassionati e tanta gente che va a vedere, io credo che, insomma, ce n'è bisogno. Beh, tu sai che arriviamo tutti da lì, no? Sì. Cioè, Trieste, cioè, la pallacanestro italiana è partita da lì. Trieste dagli anni pionieristici era uno dei soci fondatori del campionato italiano, insomma, quindi giusto, facciamo tutti il tifo perché torni. Tra l'altro nell'ultima partita finita 90-81 il migliore in campo è stato un ragazzo di Pesaro, Benevelli, del 1985, che ha segnato 26 punti, quindi insomma anche questo con un figlio di Amos, non so se sia il figlio di Amos, però non lo so, anche io ho il dubbio. Però ecco, un ragazzo del 1985 fa 26 punti prendendosi anche responsabilità in 34 minuti, una partita molto equilibrata dove anche Riva del Garda certamente ha fatto la sua parte, tra l'altro partendo non per vincere il campionato. Riva del Garda era appena retrocessa la scorsa stagione, quindi insomma partiva per cercare di piazze storiche. C'è anche sempre dalla dilettanti è tornato in Serie A Vigevano. Uh-huh. Altra piazza storica e adesso tra l'altro aspettiamo invece di capire dove andrai l'anno prossimo a commentare partite, se a Sassari o a Soresina o a Cremona. Sì, vediamo innanzitutto se avremo i diritti per poterle andare a commentare, però. Claudio Bologna, buongiorno. Buongiorno a lei. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666 per i messaggi. Claudio, prego. Volevo parlare riguardo ai prezzi di Bologna. Sì, fa bene. Sono della Virtus, ex abbonato, perché quest'anno non ho rifatto l'abbonamento. I costi sono veramente elevati. Io parlando con amici di Siena, loro con la metà dei costi fanno il campionato, il playoff e l'Eurolega. Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui comunque la gente ha disertato l'abbonamento per i playoff. Altra cosa, sono state le ultime 6 partite, che comunque 5 forse, mi correggo, di regular season perdute malamente, con voci di mercato già di allenatore, non allenatore. Questo forse non ha aiutato la gente a legarsi. Sì. Il pubblico comunque a Bologna è sempre molto caldo, l'ha manifestato nella finale di Euro Challenge. No, ma poi non dimentichiamo, ripeto Claudio, che lei ha ragione su tutti i fronti. Io credo che, almeno la mia impressione è questa, cioè prezzi alti abbinati a un finale di stagione non incoraggiante hanno fatto sì che gli abbonati per i playoff fossero quelli. L'impressione è anche che dopo la vittoria in Euro Challenge, ma forse a monte la sera stessa della sconfitta in casa con Siena, che ci ricordiamo tutti, qualcosa si sia rotto, probabilmente tra Sabatini e Bonicioli, probabilmente tra altre componenti della squadra, questo non lo so da fuori, però l'impressione è questa. C'è anche qualcosa di vecchia data, perché non dimentichiamo i rapporti con Marcoschi, i rapporti conflittuali come si sono risolti con Di Bella, Michelori, i rapporti con Boykins, i rapporti con Blizzard, i rapporti col pubblico lo scorso anno, i rapporti con la Lega, i rapporti con Meneghin, i rapporti con l'ex presidente di Lega. C'è sempre una situazione conflittuale. Questo presidente evidentemente ama la scena e comunque il patron, così come lo definiscono tutti i media, alla fine lui vuole la scena, e alla fine il pubblico di Bologna, che comunque è molto caloroso e molto paziente, vuole vedere giocare a pallacanestro, forse ha deciso di non seguirlo più. Forse ha ragione lui, il pubblico di Bologna forse vorrebbe qualcos'altro, e può essere che sia così, insomma. Grazie a lei, qualcosa deve essere successo lì, no Davide? Perché... Beh sì, sicuramente, perché comunque è una piazza storica, sempre pieno. È vero che anche storicamente è sempre stato uno dei, credo, biglietti e abbonamenti più cari d'Italia, quello della Virtus, proprio storicamente, però evidentemente insomma qualcosa si è rotto, non lo so. Io ero a Bologna per gara 4, in effetti non era vuoto, però c'erano degli ampi spazi vuoti, ed era sorprendente, ti spiaceva vedere insomma, certo, un palazzo come quello con degli spazi vuoti. Io credo che ci siano state cose che negli anni, non solo nell'ultimo periodo evidentemente, non sono andate bene, e alla fine stanno pagando adesso. Io credo che appunto sia importante per Sabatini anzitutto capire bene cosa vuole fare, se andare avanti o no, e poi di conseguenza insomma operare, prendere le decisioni. Palla spicchi. Eccoci tornati, sempre con noi Davide Pessina, oltre a Flavio Suardi naturalmente. 800 24 00 24 per le vostre telefonate, messaggi 349 238 6666. E io ringrazio davvero Stefano Dabiella, che aumenta un po' la mia autostima, perché sono partito dai pronostici completamente sbagliati. Scrive: quante possibilità abbia ad arrivare in finale? Contro Roma ce ne aveva date 35, a me parevano troppe, ma ha avuto ragione lei, grazie. Fino a ieri già 8 pullman pieni per la trasferta di questa sera. Eh sì, c'è entusiasmo. Bello stare a Biella in questi giorni. Sì, ma bello stare a Biella in assoluto. In generale. Nel senso che comunque bene. Sì, io ho fatto un anno, ero ancora in A2. Però è una società molto seria, che ha sempre saputo programmare, ha fatto i passi giusti senza mai esagerare, consolidando, c'è serietà nel lavoro, serietà negli stipendi, nel pagamento degli stipendi, sono tante piccole cose che però i giocatori poi vivono, e alla fine se devi fare un tuffo in più lo fai volentieri. Non so come dire, questa è veramente una società modello per tante cose, da Alberto Savio, il presidente che aveva fondato insomma anni fa con Marco Tripaldi la società in giù, ha sempre lavorato molto molto bene. Adesso Daniele Baiesi dimostra di essere uno dei migliori GM del nostro campionato, per cui io credo che non sia frutto del caso questa semifinale. Dunque abbiamo già in linea Stefano da Verona, andrà da Milano, però abbiamo in linea anche un campione d'Italia. Ne abbiamo un altro qua, io devo capirci. Chi ha vinto? Dunque, 20 anni fa, il 27 maggio di 20 anni fa, compleanno 2 anni fa, uno degli scudetti più contestati nella storia della pallacanestro italiana. E francamente io ancora non ho capito chi ha vinto, anche perché durante la pausa con Davide Pessina si parlava di quel canestro. Secondo lui non era buono, secondo me sì. Secondo Walter De Raffaele? Ciao Walter, beh, grazie. Ciao a tutti, è stato un furto legalizzato. Ciao Walter. Ciao Davide, come stai? Io molto bene, grazie. Tu? Tutto bene, tutto bene. Guarda, ero adesso a Bologna, sono a Bologna alla Nazionale, e uscendo non a caso ho incontrato Flavio Carrera, quindi anche a farla apposta. Quindi due campioni d'Italia contro uno, solo che sì. in due squadre diverse. Insomma, sei capito a distanza di 20 anni, Walter, se quel canestro era valido o no? Ma alla fine no, perché comunque poi forse con le tecnologie di oggi saremmo riusciti a capirlo un pochino meglio. Lì la sensazione era comunque sempre di grande indecisione. Da parte nostra abbiamo sempre continuato a dire che era buono, però poi alla fine contano i fatti, e lo scudetto l'ha preso Milano. Anche se Carlo Sassi alla Domenica Sportiva, come si ricordava con Davide Pessina prima, dimostrò che forse quel canestro, non mi ricordo male, per una ventina di centesimi comunque. Era tutto costruito, non ci credere. Vabbè, a me andava bene. A lui un po' meno. No, lui a loro meno. Ma guarda, io dicevo loro prima, sono convintissimo di una cosa. A parte che è stata comunque una finale molto molto bella, ovviamente di grande tensione, di grande emozione. Ma se voi non vi si fosse fatto male Bignon, che si ruppe i tendini tirando un pugno alla porta di Reggio Emilia, eravate difficilmente battibili. Assolutamente. Perché giocavate molto molto bene, davvero molto bene. Per quanto poi David Wood ci dette una mano incredibile, perché comunque però non era Bignon. Sì, esatto, Bignon era sicuramente il giocatore giusto all'interno di un ingranaggio quasi perfetto. La cosa che io dico, e ho detto anche ieri a Andrea Forti, che gli ho mandato un messaggio scrivendogli: mi devi ancora il premio scudetto, perché per colpa tua non l'ho riscosso. Quindi tira prima, no? Come? E dovevi dirgli tira prima. Esatto, questo glielo dico continuamente, anche perché è il mio agente, quindi lo massacro tutte le volte. Però gli dicevo che è stato l'unico modo per essere ricordati negli anni, perché io penso che veramente a distanza di 20 anni una finale scudetto che si ricorda così non esista. Sì, e sì, questo purtroppo nella tragedia è l'unico modo poi per essere veramente ricordati, soprattutto lui che ha sbagliato, maledetto. Tra l'altro Walter De Raffaele quest'anno, venendo all'attualità, è stato secondo me il miglior coach della Lega 2, senza perché dubbio ha costruito un campionato straordinario prendendo Pavia dalle ceneri, da una situazione insomma quasi impossibile, e portandola a perdere una serie di playoff contro la squadra che probabilmente andrà in Serie A, e cioè Soresina. Detto tutto giusto, Walter? Ma intanto ti ringrazio dei complimenti, che fanno sempre doverosi. Molto piacere. Sicuramente è stata una stagione super, perché in rapporto al budget che avevamo, ai giocatori e alla posizione della squadra, abbiamo sicuramente fatto molto bene, e questo è merito, come al solito, di tutti. Noi siamo usciti nella serie di playoff, raggiunti all'ultima giornata contro Soresina, devo dire anche con qualche rammarico, perché comunque la prima partita a Soresina l'avevamo decisamente in pugno, e magari vincendo quella sarebbe cambiata la serie, però devo dire che adesso, con l'uscita di Casale, certamente Soresina ha grandi possibilità, anche se io sostenevo, e ho sempre sostenuto, che Sassari gioca la miglior pallacanestro. E quindi sarà secondo me una finale molto aperta, perché Sassari è una squadra con meno talento di Soresina, ma ha dimostrato di avere grandi qualità. Senti, da allenatore mi spieghi una cosa che mi fa imbestialire. Come dicevo prima, no? Ho anche un messaggio: seguendo il vostro discorso logico e dato per scontato che si esce con Siena, in che ruoli fareste gli innesti a Treviso? Scrive un ascoltatore di Treviso. Gli innesti ne parliamo dopo, ma perché dando sempre per scontato che con Siena si perde? Cioè, come dicevo prima anche con Coach Peterson, un atteggiamento un po' discutibile quello di tutte le avversarie di Siena nel nostro campionato. Sguardo per terra, sai già che Siena ti batte, sei lì ad aspettare la mazzata. Questo non è un granché come atteggiamento. Non è un granché, però è anche la realtà delle cose, perché comunque Siena ha dimostrato che se non hanno problemi loro, difficilmente le altre squadre hanno la forza per batterli. Quindi diventa non una condizione mentale, perché poi è normale che le squadre andranno in campo, Treviso e chi sarà l'altra finalista, per battere Siena faranno di tutto, però ha dimostrato di avere una struttura, una qualità di gioco, un'organizzazione decisamente superiore. Diciamo che decidono loro il proprio futuro, e quindi è molto nelle loro mani. Poi il resto, secondo me, è anche il fatto di non dover far vedere, magari da parte degli altri, di essere altezzosi o presuntuosi nel dire battiamo Siena, perché poi la realtà è che comunque Siena è decisamente superiore a tutti. Poi comunque è naturale che i giocatori, allenatore e le squadre entrano in campo per provare a batterli, però obiettivamente in questi ultimi 3 anni c'è stato un dominio veramente assoluto. Una domanda che riguarda un po' il futuro di De Raffaele allenatore. Sicuramente la nazionale in questo periodo estivo, nella prossima stagione che cosa c'è nel tuo futuro, visto che è notizia di questi giorni che anche il futuro di Pavia in questo momento non è scrivibile in maniera certa? Sì, io ho intenzione di sfruttare fino in fondo questa bellissima esperienza, questa occasione che mi ha dato Recalcati, perché comunque è un'esperienza che non ho mai vissuto e la voglio vivere in pieno. E questo mi ha portato anche a rifiutare una buona opportunità con Venezia, che comunque è una grande società, ma io, ripeto, volevo vivermi questa esperienza fino in fondo e poi vedere anche la situazione di Pavia, che è una situazione abbastanza in divenire, con tante voci che si susseguono. Da parte mia c'è molta tranquillità, molta serenità nel vivere questa esperienza e cercare poi di prendere la migliore opportunità per me e per la mia famiglia, cercando di fare un passo avanti. Se poi questo si concretizza con Pavia, ne sono contento, altrimenti cercherò anche altre strade, però in questo momento la priorità è assolutamente quella di vivere queste esperienze delle qualificazioni in maniera totale, perché comunque è una cosa che sento molto e che, non avendola mai fatta, la faccio con grande entusiasmo. Certo. Questo è assolutamente comprensibile. Allora Davide, stasera vai a casa, tiri fuori una maglia con lo scudetto, fai una foto e la mandi a Walter. Ce l'abbiamo anche noi le foto con lo scudetto, peccato che poi ce l'hanno levata. No, ma infatti io mi ricordo che a un certo punto, appena dopo la partita, c'era stata questa situazione surreale dove noi da una parte festeggiavamo e vedevamo voi festeggiare dall'altra, e ci siamo guardati, esatto, come dire, qui qualcuno però deve decidersi, perché se no non ne veniamo fuori. Ma la cosa pazzesca è che noi è entrato Alberto Bucci dopo un'ora a dirci che avevamo perso. Immagino. Abbiamo fatto tutte le foto dentro lo spogliatoio. Sì, perché i fotografi erano stati prima da noi e poi sono venuti da voi. Esatto. Infatti anche noi abbiamo fatto le foto a tutti. Esatto. sì, veramente. No, Davide, da Raffaele allenatore, è un signor allenatore. Sì, io l'ho avuto la possibilità di vederlo soprattutto l'anno di Livorno e di Reggio Calabria. Ho trovato che insomma sia sicuramente un allenatore giovane, ma di grande capacità. Mi è piaciuto molto anche l'atteggiamento che ha in panchina. Sì. Molto coinvolgente, molto entusiasmo, tecnicamente mi sembra molto preparato, per cui direi che quando si dice che non ci sono giovani allenatori, in realtà ci sono. Io credo che lui davvero sia uno che nel futuro possa fare molto bene anche a livello di grossi club, lo dico sinceramente, non perché adesso perché hai vinto, ovviamente, lo scudetto, ci ascolta. Se l'avessi perso, sarei vomitando veleno, però. Ma ora perché ha vinto lo scudetto, dai, va bene. Esclusivamente per quello. Grazie Walter, buon lavoro. Grazie a voi, ciao Davide, ciao, in bocca al lupo. Tra l'altro, grazie. Piccola nota a Masina, a Venezia è andato Sandro Dell'Agnello. Che insomma, altro livornese. È stato protagonista di una grande stagione a Livorno. Sì, anche lui, tra tutte le difficoltà che ha avuto. Insomma, un altro che come personalità e conoscenza da pallacanestro, insomma, seconda a pochi. Palla spicchi. Io mi sono dimenticato di, preso nell'autocompiacimento, di rispondere a Stefano da Biella sulle probabilità di vedere Biella in finale. Secondo me alte. Se ho detto 35 su 100 contro Roma, qui dico 48 Biella, 52 Milano. Esagero. Sì, però non sei molto lontano, insomma. Nel senso che io la trovo una serie davvero in bilico. È chiaro, il solito discorso, Milano ha il vantaggio del fattore campo, che esperienza, forse anche rotazioni un pochino più lunghe, però Biella entusiasmo, atletismo, buonissima pallacanestro, enorme fiducia, un grande pubblico, per cui sarà tosta. Io vedo veramente una serie che può tranquillamente andare alla quinta o comunque essere veramente, cioè, se passasse Biella sarei sorpreso molto poco. Intanto stasera 20:30 si parte con 8 pullman, ma sono solo l'inizio, perché saranno molti di più quelli che arriveranno da Biella a Milano. Stefano Verona, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno a tutti. Io chiamavo sempre per sottolineare che anche Verona quest'anno è riuscita a vincere il playoff ed andare nell'A dilettanti e siamo tutti molto contenti. Insomma, mercoledì sera c'erano più di 3.000 persone al palazzetto nonostante la finale di Champions. Insomma, Verona, la passione per il calcio è tanta. E siamo tutti molto felici, volevo dirlo, ecco, tutto qua. Hai fatto benissimo. Beh, poi si dice di basket in crisi, ma dove? Anche qui diciamo... Esatto, sì, veramente. No, vabbè, anche un'altra grande piazza storica, ha vinto una Core, insomma, ha avuto grandi squadre. Come no? Semifinali, scudetto, se non mi sbaglio, per cui sicuramente grande tradizione, passione. Sì, sì, è importante che queste realtà ritornino al basket diverso. No, ma poi spettatori, 3.500 da una parte, 4.000 dall'altra. Insomma, per campionati insomma, sono segnali importanti, sì, questi. Molto più importanti dei dati di aumento di affluenza ai palazzetti di Serie A, che sono comunque importanti, ma non come questi. 48-37 l'ultima partita, abbastanza rivedibile. Le mie preferite. Direi rivedibile. Le mie preferite. Però insomma, io sono per quella che contava. 48-37. Sono per le partite ai 60, sono quelle che mi piacciono di più. Andrea Milano, buongiorno. Sì, ciao. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Un venerdì di basket ci vuole sempre, insomma. Noi siamo qui ormai da due stagioni, e andiamo avanti. Non preoccuparti. Bene, ottimo. Io ho due domande. Uno è, se arriviamo in finale, siccome sono tifoso di Milano, se arriviamo in finale comunque non abbiamo il posto in Euroleague, perché mi sembra un po' cervellotico tutto ciò, più che altro. E la seconda domanda è, anch'io sono un po' preoccupato per la serie con Biella, perché insomma... Per noi, se come sembra, Rocca dei tempi di recupero abbastanza lunghi, per noi Rocca secondo me è molto importante, secondo me nei momenti di pressione, insomma, secondo me a volte abbiamo degli schemi un po' limitati, a volte o a palla Hawkins per gare o tiro a piccione da tre, insomma, a volte secondo me siamo un po' limitati da questo punto di vista. Sì. E l'ultima considerazione è questa, che secondo me, ecco, la cosa buona invece che secondo me Milano, ecco, ha impostato, questo è il primo di tre anni, di un programma di tre anni, e questo secondo me non può far altro che ben sperare, insomma, per arrivare a livelli di Siena. Sì, no, no, certo, se proseguirà su questa strada, considerazioni tutte molto interessanti, a cominciare da quella su Rock e su una Milano che molto spesso appunto si affida a David Hawkins quando si trova un po' in difficoltà. Anche troppo. Sì, forse a volte sì, però secondo me Milano ha una caratteristica positiva, che difficilmente molla. Comunque una squadra che gioca bene, gioca male, però è sempre attaccata alla partita, insomma ha una solidità di gruppo notevole. Questa secondo me è una caratteristica molto importante, soprattutto nei playoff dove giochi, insomma, partite anche dalla grande pressione. Tornando al discorso dell'Eurolega, anche qui non vorrei sbagliarmi, ma credo che non sia tanto un discorso di qualificazione o meno se Milano va in finale, ma di licenza triennale. Cioè, se Milano va in finale, credo che sicuramente abbia la licenza per un anno. Certo. Però per averla triennale deve vincere lo scudetto. E Roma avrebbe quella triennale. E Roma avrebbe quella triennale, sì. Andiamo un attimo al Giro d'Italia. Voci dal Giro. Rapido flash con Pier Augusto Staggio, oggi giornata importante. Che sta succedendo, Pier Augusto? Ma intanto succede che ci sono due uomini al comando, hanno coperto una sessantina di chilometri, sono sulla costiera amalfitana, devo dire un paesaggio eccezionale, incantevole, giornata di sole, temperatura ideale per andare in bagno ma anche per andare in bicicletta. In fuga c'è Christoph e Facci e hanno appunto circa 7 minuti di vantaggio sul gruppo Magliarosa. Magliarosa che ha forato qualche chilometro fa, è rientrato però prontamente in gruppo e niente, oggi si attende il Vesuvio, questi 13 chilometri che potrebbero decidere il Giro d'Italia, anziché lo deciderà in definitiva, perché o Denis Menchov crolla o resiste, comunque la si voglia girare, oggi il Vesuvio darà un responso probabilmente definitivo di questo Giro del Centenario. È la grande occasione per Danilo Di Luca, che deve recuperare un'inezia di 26 secondi, però sembrano pochissimi, ma in realtà sono tanti. Tanti, sono veramente tanti. Oggi è il giorno della verità e più tardi vi diremo chi avrà la maglia rosa addosso stasera. Ovviamente breaking news sull'arrivo e poi speciale dopo il giro delle 19. Grazie per questo stagio, a più tardi. Voci dal Giro, in collaborazione con... Il cambiamento è nell'aria. Ford dà più valore agli incentivi statali. Oggi puoi avere Transit Van Turbo Diesel Common Rail a 10.500 euro. Chi vince il giro, Davide? Ah, bella domanda, non sto seguendo, devo dire, tantissimo. Seguivo più qualche anno fa. Tanto grazie. Chi vince stasera tra Milano e Biella? Questa è un'altra bella domanda. Questo non puoi dire che non lo segui. Biella. Sono tentato di dire Biella. Ti dico la mia, 3-1 Milano. 3-1 Milano, benissimo. Ci troviamo qui venerdì prossimo e facciamo i conti. Intanto io vi saluto perché adesso vi faccio sentire l'intervista di Dario Ricci ad Andrea Bargnani. Ringrazio Davide Pessina naturalmente per essere stato qui con noi. Grazie e torna presto. Grazie a voi, quando volete. Flavio Suardi qui vicino a me, Gigi Borghi in redazione, Peter Bescapè in regia. Sentiamo insieme Bargnani con lo sport. Ci troviamo domani pomeriggio dalle 17 alle 18. Dal punto di vista personale sicuramente una buona stagione, soprattutto da dicembre in poi, quando sono diventato titolare fisso, e ho iniziato a giocare molti minuti. Dal punto di vista di squadra sicuramente più deludente, però purtroppo capita, dopo due anni molto positivi in cui siamo andati ai playoff, quest'anno non ci siamo riusciti, però già stiamo lavorando, ecco, per la prossima stagione. Confermato Getriano in panchina, com'è cambiato il tuo gioco con il nuovo coach dopo i due anni con Sam Mitchell? Sì, mi sono trovato senza dubbio molto meglio con Jay, mi sono contentissimo che sia stato riconfermato come la maggior parte della squadra, che l'ho accolto subito molto bene, e quindi sì, penso sia l'uomo giusto da cui ripartire. Di fatto non ha funzionato il gioco delle tre torri, no? Sotto canestro con Bosch e con l'ex Pacers. No, quella era una soluzione abbastanza improbabile. Da invece dal punto di vista personale, su cosa c'è ancora da lavorare? Direi quest'anno sei riuscito a migliorare le tue cifre, no? Rispetto ad una seconda stagione in chiaro e scuro. Dal punto di vista, ecco, individuale, quali sono i punti su cui concentrarsi ora? Ma gli stessi su cui mi sono concentrato l'estate scorsa, cercare di migliorare nel gioco in post basso, vicino al canestro, e sì, un po' tutti gli aspetti del gioco, perché insomma di strada ce n'è ancora molta da fare. Tuo futuro sarà ancora Toronto comunque, hai più volte dichiarato che ormai ti senti canadese al 100%, ma anche dal punto di vista cestistico. Sì, no, a Toronto mi trovo molto bene, poi vuol dire di certo non c'è niente perché ti possono scambiare in qualsiasi momento, però io spero di rimanere a Toronto. Capitolo azzurro, hai risposto presente alla chiamata della nazionale, insomma in vista di questa estate che sarà decisiva con la sfida per la qualificazione europea, ci saranno anche Belinelli, Hackett, insomma le nostre grandi speranze d'oltreoceano tornano a dar manforte alla causa azzurra. Sì, abbiamo questo girone, diciamo un po' l'ultima spiaggia per riuscire a qualificarsi agli europei, sarà molto difficile perché c'è la Francia e altre squadre forti e tutti i giocatori andranno nelle rispettive nazionali, quindi ci incontreremo a luglio, inizieremo a preparare questo piccolo torneo di qualificazione e insomma ce la metteremo tutta, speriamo di farcela anche se sarà dura. E senti, vista da oltreoceano questo basket italiano con le sue beghe, le sue polemiche, i suoi problemi, che effetto fa? Io lo seguo sempre sul sito della Lega, poi ho visto questa serie della Benetton contro Bologna, a me è piaciuta molto, ho visto tre bellissime partite qua al Palaverde, mi sono divertito molto. Per quanto riguarda i playoff NBA, direi finora anche esiti sorprendenti, visto quanto stanno soffrendo Cavaliers e Lakers e l'uscita di Boston, ti aspettavi questa rivoluzione? Beh, l'uscita di Boston sì, senza dubbio, visto che non c'era niente. Ma sai, Orlando l'ha battuta tre volte durante la stagione Cleveland, quindi sicuramente uno si poteva aspettare che avrebbe sofferto. No, che andava 3-1 così subito. Certo, e anche i Lakers con i Nuggets, insomma, devono sudare le classiche sette camicie. Sì, beh, cioè, è arrivato alla semifinale, non penso di regali niente a nessuno, sono le quattro squadre più forti del mondo, quindi sicuramente insomma, non c'è niente di facile a quel livello. Questo anello chi lo porta a casa alla fine? Beh, durissimo, io penso, credo Los Angeles, però non lo so, io due. Di Los Angeles, però se vincesse Denver non mi stupirei, anche Orlando.